Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Aveva esordito con L'assaggiatrice, poi ha scritto romanzi come Il conto delle minne, Manna e miele, Ferro e fuoco, giusto per citarne un paio. Ora è in libreria con Il figlio maschio, pubblicato da Rizzoli. È la storia vera, verosimile, di alcuni editori realmente esistiti in Sicilia, come Filippo Ciuni e Vito Cavallotto. È un romanzo veramente bello, che racconta vicende e personaggi dal 1924 al 2005. L'aspetto che mi ha colpito di più e subito di questo romanzo è la struttura, perché è fatto e diviso per tanti capitoletti. Ogni capitoletto è dedicato a un personaggio, quindi si tratta di un romanzo corale. Ma allora perché questa divisione di capitoli dedicata ai singoli personaggi? Ecco che cosa ci ha risposto Giuseppina Torregrossa. Intanto perché la storia della famiglia è una storia legata ai libri e ognuno di loro ha svolto un ruolo, ogni personaggio di questo libro ha svolto un ruolo nella storia dell'editoria siciliana e direi anche nazionale, perché Filippo Ciuni fu a Firenze poi negli ultimi anni della sua vita. E poi mi piaceva raccontare i pieni di una storia cercando di evitare quelle inutili ripetizioni che appesantiscono una narrazione e appesantiscono qualunque racconto. Quindi ogni capitolo, talvolta ci sono dei capitoli che vengono raccontati nello stesso giorno, lo stesso avvenimento da due personaggi diversi, talvolta ci sono dei salti temporali di 10 anni, ma al netto di tutte le ripetitività, la storia di ogni essere umano può essere raccontata veramente in poche pagine. Questa è la necessità di fare un racconto corale. Tutto inizia da Concetta Russo, possiamo dire così, il primo capitolo è dedicato a lei, tutta la prima parte del libro è intitolata La passione. Allora c'è questa Concetta, il marito è un contadino, insomma, invece lei ama molto l'idea della lettura, i libri, fa studiare tutti i figli e destino vuoi che, insomma, in particolar modo uno dei suoi figli, Filippo, si è destinato ad avere a che fare con il mondo dell'editoria. Cosa combina questo Filippo? Ma Concetta Russo, che porta questo cognome illustre perché è la cugina di Luigi Russo, il critico letterario, credeva molto nell'istruzione e aveva fatto infatti studiare tutti i suoi figli, femmine compresa, che per l'epoca era una cosa piuttosto originale, insomma non succedeva di frequente. Filippo, questo amato figlio maschio, è un uomo che riesce, come dire, su stimolo della madre, perlomeno io ho immaginato che fosse così, magari non è stato così, si sposta dalle campagne di Sommatino e raggiunge nel 1924 Palermo, dove prima prende una piccola bancarella con i libri, poi apre una libreria e diventa nel giro di pochi anni un libraio, un editore di fama nazionale, perché negli anni del fascismo lui da editore fascista pubblica Croce. Quindi è un elemento di grande novità, sostenuto dal la moglie Luisa Saracinelli, la contessa Luisa Saracinelli, che nasce invece a Firenze, e infatti lui a un certo punto della sua vita trasporta i depositi di carta, le stamperie tutte a Firenze, si trasferisce a Firenze dove peraltro muore giovanissimo nel 44. Già dalle sue parole, insomma, si capisce che è una storia vera e verosimile, nel senso che i personaggi sono realmente esistiti, ma come scrive poi lei alla fine del romanzo, i sentimenti che provano, le coincidenze, gli incontri, i dialoghi sono frutto della sua fantasia. Sì, assolutamente, questo non vuole essere una biografia, vuole essere il romanzo di una passione, la passione per i libri, la passione per le storie, la passione per la letteratura, e soprattutto vuole essere nella verità o nella verosimilità che la letteratura talvolta sostiene, vuole essere il ricordo di una pagina felice della storia siciliana, quando si facevano gli editori, quando tutto sembrava possibile. Ecco questo. È anche molto bello il rapporto che Filippo ha con la sorella Concettina, no? Questa Concettina si prende cura di lui, va con lui a Palermo, lo assiste in tutto e per tutto e condivide con lui la passione per i libri e la cultura, insomma, è anche lei, oltre alla madre Concetta, qua Concetta e Concettina ne abbiamo due, a dare un po' la spinta. Beh, Concettina è una donna che ama, che si innamora dei libri. che non sapeva cosa fossero i libri, fino a che, pur avendo studiato, ecco, aveva la quinta elementare, a un certo punto si ritrova in questa libreria con il fratello, mandata dalla madre per sostenere Filippo in questa avventura, perché non scordiamoci che le sorelle, fino a un certo punto della storia siciliana, erano obbligate in qualche modo a prendersi cura dei loro familiari, ed erano i genitori ed erano i padri, ma erano anche i fratelli, soprattutto per evitare, perché il timore era che un uomo da solo potesse essere preda dei desideri di qualche donna perduta. E allora Concettina ha una funzione doppia, quella di, così, di prendersi cura del fratello e di stare attento che il fratello non devida la strada segnata dalla madre. E lì scopre l'amore per il libro, tant'è che quando lei si trova a dover ritornare al paese, richiamata dai genitori, continua a nutrire questo sogno per tutta la vita, sogno che poi mette nel figlio che è Vito Cavallotto. E infatti qui arriviamo, diciamo, alla svolta, perché siamo Seconda Guerra Mondiale, appunto Filippo muore. Adesso non raccontiamo tutti i particolari del romanzo naturalmente, però tipografie bombardate e così via, e c'è la figura di questo editore, Vito Cavallotto, anche in questo caso realmente esistito. Sì, Vito Cavallotto era il figlio di Concettina Ciuni, un ragazzo vivace, intelligente, che aveva fatto fino alla terza media e che poi viene mandato a 13 anni dal cugino Michele Sciascia. Ecco perché le dico è una storia di editoria, perché Michele Sciascia, editore di Caltanissetta, è un altro cugino di Vito Cavallotto ed è cugino di Filippo Ciuni. Sono tutti imparentati ed è interessante scorrere l'albero genealogico di questa famiglia, perché si scopre che c'è persino una suora che apre una libreria religiosa a Palermo negli anni 50. Quindi è chiaro che c'è nel loro destino il libro. E Vito Cavallotto, prima di fa il garzone di bottega a Salvatore Sciascia, che è l'omonimo di Leonardo, lo scrittore, ma non parenti, e poi apre da solo una libreria, sempre sobillato da questa madre Concettina, perché quello era il sogno di Concettina, non era il sogno di Vito, che invece voleva fare il meccanico. Però apre una libreria prima a Caltanissetta, poi a Catania, poi a Palermo, e negli anni 70 riesce a portare a Caltanissetta addirittura Ionesco, che mi sembra un'avventura straordinaria per un libraio di quei tempi. Ecco, visto che è un romanzo corale così pieno di personaggi, devo dire che l'idea di dividere per capitoletti è un'idea fondamentale, perché sennò ci si perderebbe anche in tutto questo albero genealogico. C'è una cosa che non manca mai nei libri di Giuseppina Torregrossa e neanche in questo. C'è sempre questa sensualità, queste donne sensuali, queste donne che non hanno paura di vivere il sesso e la passione in modo libero, indipendentemente dall'epoca in cui vivono e dal luogo in cui vivono. Ormai è diventato un po' il suo marchio di fabbrica. Beh, io un po' sono convinta che tutto si muove attorno a quello, credo che sia un motore persino più forte del denaro, nonostante quello che si pensi, e credo che le donne siciliane, a dispetto di quello che abbiano voluto disegnarci, ecco, siano delle donne piene di passione. E siccome sono delle donne piene di passione, credo che mettano passione anche in quello, anche in quel sesso che viene considerato fino a un certo punto, come dire, la mela proibita da noi soprattutto. Sembrava che le donne siciliane dovessero essere delle sante. Sono delle sante, ma sono delle sante perché sono capaci di atti di eroismo, sono anche molto umane, e questo aspetto di umanità a me sembra molto importante e mi diverte molto raccontarlo, o immaginarlo soprattutto. Ci sono delle scene in questo romanzo in cui proprio la sensualità si percepisce al di là proprio dell'atto fisico, no? Soprattutto fra Concetta e il marito, all'inizio un certo modo di guardarsi, di sedersi a tavola, di mangiare. Quindi per lei la sensualità è fatta da tante cose. Non deve essere facile per uno scrittore parlare, descrivere la sensualità. Guardi, descrivere la sensualità è una bella sfida ogni volta, perché è molto difficile, o comunque l'incidente di percorso incombe sempre, quindi è una delle cose che più mi diverte, anche perché è una grossa sfida. L'equivoco fondamentale è di pensare che l'erotismo, che l'eros, sia collegato solo ed esclusivamente alle lenzuole, che sia una cosa che si svolge dentro i letti. L'eros è anche in un bel gelo di melone, in quello che si cucina, in quello, anche in un certo modo di guardare, anche in un certo modo di muoversi. E quando succedono queste forme di magia fra due persone, fra un uomo e una donna, o fra due donne, o fra due uomini, o quello che è, sono delle magie che si vedono subito. È una comunicazione che va al di là del gesto, al di là dell'atto. Quindi lei se ne accorge subito quando fra due persone c'è una comunicazione erotica, già lo vede da lontano, già lo vede nel modo di togliersi, di come ci si toglie un cappotto davanti alla persona che ti interessa, ed è questo che è interessante raccontare. E questa era Giuseppina Torregrossa, ora in libreria con Il figlio maschio, pubblicato da Rizzoli. Il cacciatore di libri. Quando Olga Papella cominciava a raccontare, chi era vicino tendeva l'orecchio. Le finestre si dischiudevano, le voci nei cortili si acquietavano, volti incuriositi sbucavano da dietro il bucato e chi era in casa usciva, trascinandosi dietro una sedia. Facciamo un indovinello, a chi può essere rivolto un libro che parla così? A bambini, a ragazzi, ad adulti, ma probabilmente a tutti. Il titolo è Olga di carta, il viaggio straordinario, l'ha scritto Elisabetta Agnone, pubblicato da Salani. Elisabetta Agnone è un nome famosissimo per la letteratura per ragazzi, perché ha inventato la serie a fumetti Witch e poi anche la saga di Fairy Oak, di cui avevamo anche parlato qui al Cacciatore di Libri. Elisabetta, ho preso questo pezzettino del libro e ho fatto questo giochino, questo indovinello, insomma, a chi è diretto questo libro? Perché apparentemente è un libro per bambini, ragazzi, però c'è scritto poi alla fine, insomma, nella bandella, nella quarta di copertina, che è un po' per i lettori di tutte le età. È così trasversale questo libro? Ci sono più livelli di lettura o anche un adulto può trovare il piacere di tornare bambino? È per tutte le età, perché affronta il problema di quanto sia difficile, travagliato, accettare le proprie diversità, la propria eccezionalità o affrontare ciò che è diverso rispetto a noi. È un lungo viaggio straordinario, affermarsi, riconoscersi, accettarsi, accettare il diverso, e che credo riguardi senz'altro i ragazzi, ma riguarda ciascuno di noi, cioè il sentirsi a volte esposti o fragili o non adatti. È un sentimento che ci prende tutti prima o poi. Grandi o piccini, grandi, insomma, ci dobbiamo fare i conti prima o poi con questo sentimento. Cioè, talvolta purtroppo ci nasce, ci vivi, ci convivi tutti i giorni con questa sensazione, talvolta a qualcuno capita meno, magari meno spesso, più rado, a qualcuno raramente, ma prima o poi fuori di casa in mutande ci restano tutti con la sensazione, becca tutti. E questo è un po' il messaggio che si vuole dare. Il viaggio è lungo e faticoso e per nulla affatto facile. Una consolazione può essere che anche le persone che sembrano più sicure, che ci sembrano più forti, più salde sulle loro gambe, più disinvolte in qualsiasi situazione, prima o poi quel disagio l'hanno sentito anche loro, e questo è incoraggiante, insomma. Andiamo un pochino sulla trama del romanzo. Olga di carta è un libro nel libro, possiamo dire così, perché c'è il personaggio Olga Papella, appunto, di cui leggevo prima qualche brano, che è una bambina, 11 anni, e ha un dono particolare, quello di affabulare i suoi compaesani raccontando storie. È così, credo che raccontare storie sia una coccola bellissima che si fa quando si racconta e si riceve quando ascolti qualcuno raccontarti una storia. È bello. Ascoltare qualcuno che ti racconta una storia è un dono, è un massaggio all'anima straordinario. Io sono stata una bambina a cui sono state raccontate tante storie e me le sono godute tutti quei momenti. E quindi una parte delle ragioni per cui tutti ascoltano Olga è perché è bello ascoltare una storia. Infatti sì, si legge, proprio leggendo questo libro si capisce che Olga è affascinante, appunto dicevo prima, è una fabulatrice, tutti stanno ad ascoltare le sue storie, che poi sono in alcuni casi storie di consolazione, per consolare un amico che ha un problema, che si sente diverso appunto rispetto al resto della comunità. E perché dicevo la storia nella storia? Perché Olga inizia a raccontare la storia di una bambina di carta, Olga di carta appunto, che è una bambina che si sente diversa dagli altri perché è di carta, gli altri sono tutti in carne e ossa, e vuole andare da una maga, insomma, per farsi trasformare in carne e ossa. Il viaggio è pericoloso perché, insomma, deve andare da sola, deve affrontare un sacco di pericoli, eppure c'è sempre il desiderio di essere uguale agli altri. È perché sì, perché nel gruppo ci si salva, il branco è la salvezza, cioè è insito in noi essere fuori dal branco e essere un po' a rischio. La difficoltà è cercare di entrare nel branco mantenendo la propria specificità, la propria originalità, questa è la cosa più faticosa. Se vuoi è il percorso esattamente opposto di Pinocchio. Pinocchio era una struggente storia di libertà, di questo burattino che sfugge ai fili e che però viene invece poi ricondotto alla moralità dei tempi, a essere un bravo bambino legato ai fili che il burattino aveva rifiutato. Olga fa il percorso al contrario, vive in un'epoca in cui si può esprimersi anche da bambini e lei cerca di essere uguale agli altri, di non essere strana, di non essere diversa, e scopre durante questo lungo viaggio, incontrando tanti personaggi straordinari, la libertà di essere come si è. Infatti la cosa che mi ha colpito di questo libro, ecco, leggendolo poi da adulto, è che mi sono resa conto, per esempio, adesso andiamo proprio sul privato, che io quando invento le storie per i miei nipotini tendo a inventare sempre storie di un personaggio che sia un animaletto, eccetera, che si sente diverso dal gruppo, per questo è costretto ad andare fuori nel bosco, e poi acquisisce delle capacità molto più, come dire, più belle, più interessanti degli altri suoi compagni. Allora, io non scrivo libri per bambini, racconto solo storie. Questo però, tu che sei un'esperta del settore, è un meccanismo tipico delle storie per l'infanzia, cioè il soggetto che si sente diverso, che esce dal gruppo e poi torna in qualche modo vincente. Ma le favole, le favole venivano raccontate ai bambini per trasmettere dei messaggi, o erano dei messaggi educativi, o erano dei messaggi consolatori, o erano rassicuranti ed erano vestiti da favola. Fondamentalmente, e secondo me questo è il compito delle storie, anche delle storie, soprattutto delle storie fantastiche, o anche delle storie fantastiche, è di dare un messaggio di speranza. Per quanto tu possa essere banale o povero di poteri speciali, eccetera, ce la puoi fare con le tue forze, puoi scoprire di poter superare i tuoi limiti. Pensiamo a tutti i personaggi dei supereroi, no? Che sono, certo, ragazzi normali che improvvisamente scoprono di avere dei superpoteri. È questo, è il pensare posso superare il mio limite e farcela con le mie forze, onestamente, lealmente. E poi del resto Olga la bambina in carne e ossa, quella che racconta le storie, mette nelle storie le paure, i timori, diciamo i mostri che ognuno di noi si crea nella sua mente per contenere, e anche un po' questo è il senso delle favole che si raccontano. Esorcizzare i mostri, sì, racchiuderli, analizzarli, sconfiggerli, scoprire che si possono sconfiggere anche se sei un bambino, ce la puoi fare, e questo io credo che sia uno strumento fondamentale per affrontare la realtà, che le storie fantastiche non siano una fuga dalla realtà, ma che forniscano strumenti come la speranza, come esempi, guide per affrontarla la realtà, perché quando sei piccino hai bisogno di qualcuno che ti dia questi strumenti. E allora il libro che vi consiglio, insomma, abbiamo detto, per bambini diciamo dai 7-8 anni in su possono leggerlo anche con i genitori, è Olga di carta, il viaggio straordinario, scritto da Elisabetta Agnone, che ringrazio. Grazie a te tantissimo. E pubblicato da Salani. È un libro, abbiamo detto, trasversale, lo possono leggere anche gli adulti, è un libro che è un inno veramente all'amore per la carta, e un inno soprattutto all'amore per le storie, a raccontare le storie, a sentire raccontarsele, perché veramente le storie vanno bene a qualsiasi età. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Come sempre vi ricordo che potete seguirmi su Twitter per essere aggiornati, e trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.